distesa sopra un prato bianco, con la camicia aperta al cielo, con le tue fredde mani sopra i miei caldi seni. Le tue carezze sono nuvole, il desiderio ormai acceso, e del tuo corpo caldo non sento più il peso. Vado verso il paradiso e lì ti incontrerò. Alla fine dei miei sensi con te mi perderò. Dell'amore si calma piano piano il battito di...